Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Giovedì 12 dicembre l'Italia ricorda il cinquantenario della strage di Stato, quella di Piazza Fontana. Lo faremo anche noi, sia nella mattina che nel pomeriggio, ma subito ascoltiamo. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. La Cina ha imprigionato più giornalisti nel 2019 di qualsiasi altro paese. Cile ha avvistati alcuni resti del C-130 scomparso. Iraq, paura per i manifestanti che spariscono durante le proteste. Algeria, oggi al voto, i manifestanti invocano il boicottaggio. E ancora Bougainville vince il sì all'indipendenza. Ungheria contro i teatri, una legge per controllarli. E Nuova Zelanda riprende ad eruttare il vulcano di White Islands. Si fermano le ricerche per 8 turisti che mancano all'appello. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E oggi cominciamo con una notizia che riguarda chi fa questo mestiere, giornalisti, persone che rischiano nei loro paesi o quando vanno in altri paesi in cui la protezione e l'incolumità di un giornalista definisce anche il paese che si racconta. La Cina ha imprigionato più giornalisti nel 2019 rispetto a qualsiasi altro paese, secondo un rapporto pubblicato ieri dal Comitato per la Protezione dei Giornalisti. Almeno 48 reporter sono stati incarcerati in Cina quest'anno. La Turchia ha incarcerato 47 giornalisti, è al secondo posto. Un giro di vite nella provincia dello Xinjiang, dove 1 milione di membri del gruppo etnico musulmano sono stati inviati nei campi di internamento, ha portato all'arresto di dozzine di giornalisti, tra cui alcuni apparentemente incarcerati per attività giornalistica di anni prima, si legge nel rapporto. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chongqing, ha affermato che il rapporto non può essere preso sul serio perché le istituzioni con sede negli Stati Uniti come il CPJ non hanno credibilità. I principali paesi che hanno imprigionato i giornalisti nel 2019 dopo la Cina e la Turchia sono stati l'Egitto, l'Arabia Saudita, ciascuno con 26 giornalisti in carcere, seguito da Eritrea con 16, dal Vietnam con 12 e l'Iran con 11. Il rapporto afferma che l'autoritarismo, instabilità e proteste in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei giornalisti detenuti in tutta la regione. Cile, funzionari cileni affermano di aver localizzato alcuni resti che si ritiene provengano da un aereo dell'aviazione che è scomparso lunedì con 38 persone a bordo. Hanno detto che il relitto è stato trovato galleggiante a 30 km da dove il velivolo da carico, un C-130 Hercules, ha perso i contatti. Il relitto è stato avvistato in uno specchio d'acqua noto come il passaggio di Greig. L'aereo era in rotta dalla città meridionale del Cile, Punta Arenas, alla base del presidente Eduardo Frei Montalva nell'Antartico. Brasile, ancora una volta il presidente Bolsonaro ha screditato sia Greta Thunberg, che ha definito una marmocchia, che Leonardo DiCaprio, ritenendolo sospetto di aver finanziato gli incendi in Amazzonia. Una ragazzina di 16 anni che dice sciocchezze, ha ironizzato presidente. La giovane attivista per il clima, nominata persona dell'anno dalla rivista Time, aveva denunciato la morte di 2 leader indigeni in Guajajara, uccisi da alcuni secari il 7 dicembre scorso. Stati Uniti, la John Properties, una società di gestione e sviluppo di proprietà immobiliari commerciali con sede a Baltimora, ha dato un bonus natalizio da dividere tra i suoi 198 dipendenti di 10 milioni di dollari. La distribuzione si basa esclusivamente sugli anni di servizio. I bonus dei singoli dipendenti variano da 100 a 270 mila dollari. In media ogni dipendente ha ricevuto un regalo di 50 mila dollari. Stai ascoltando Radio Bullets. Niger, 71 militanti uccisi durante un attacco dell'ISIS vicino al confine con il Mali, il più sanguinoso dal 2015. E in Iraq temono il peggio alcune famiglie dopo che i loro figli sono stati rapiti. per aver partecipato alle proteste che dal 1 ottobre scorso infiammano il paese. Nella maggior parte dei casi le vittime sono state prelevate vicino a casa mentre tornavano dopo aver manifestato. Sarebbero almeno 80 le persone scomparse. Alcuni poi sono stati rilasciati dopo qualche giorno. Hanno parlato di uomini mascherati che li hanno presi, interrogati, derubati del cellulare. Mustafa Kazem è tornato dalla sua famiglia con la faccia tumefatta, ma non vuole ancora raccontare cosa è successo. Altri 35 sono stati ritrovati dalla polizia sulle rive del Tigre, ammanettati e sanguinanti. La settimana scorsa il corpo livido, senza vita, di una manifestante di 19 anni è stata lasciata davanti a casa sua. Domenica un attivista di Kerbala è stato ucciso da un uomo armato in motocicletta mentre rientrava a casa. Intanto i leader cristiani hanno cancellato, lo avevamo già accennato nei giorni scorsi, le celebrazioni di Natale a Baghdad in sostegno delle proteste. Non ci sarà il solito albero di Natale nella piazza centrale occupata dai manifestanti, che invece delle palline hanno messo le foto dei manifestanti uccisi questo mese dalle forze di sicurezza. Uccisioni deliberate, rapimenti e detenzioni arbitrarie sono gli abusi che continuano contro i manifestanti antigovernativi iracheni da parte di gruppi sconosciuti, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato ieri. Il rapporto arriva dopo una serie di omicidi e arresti mirati di attivisti civili e giornalisti che alimentano la paura tra i manifestanti. Nel frattempo la violenza è ripresa nel centro di Baghdad. 31 manifestanti sono stati feriti quando le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni per disperderli da piazza Wathaba, una piazza centrale della capitale, hanno detto funzionari della sicurezza e della salute. Turchia pronta a riconsiderare lo status delle basi militari americane di Incirlik e Kurecik se gli Stati Uniti dovessero imporre sanzioni dopo l'acquisto di Ankara del sistema missilistico russo di difesa aerea S-400. Intanto il presidente Erdogan ieri ha criticato Peter Anke, vincitore del premio Nobel per la letteratura. Parlando in un evento locale nella capitale, Erdogan ha paragonato Anke a un vampiro. Anke è stato insignito del premio nonostante il suo aperto sostegno al leader serbo Milosevic, morto nel 2006 durante un processo per crimini di guerra e genocidio. Anke è anche accusato di aver negato il genocidio in Bosnia del 1995. Siria, è iniziato un nuovo ciclo di negoziati nella capitale kazaka Astana tra i funzionari di Turchia, Russia, Iran, nonché i rappresentanti del regime siriano e dell'opposizione. 14° round di negoziati, dove ci si concentrerà sullo stallo del comitato costituzionale siriano, sulla presenza della Turchia nella Siria nord-orientale, sulla situazione nella provincia di Idlib, che è stata vittima di intensi bombardamenti da parte del regime siriano e della Russia. Il Parlamento israeliano, la Knesset, ha votato per lo scioglimento anticipato della legislatura e per nuove elezioni previste il 2 marzo 2020. Sarà la terza volta che si vota in un anno. Libia, il tempo dei colloqui diplomatici è finito e ora tempo dei fucili, lo ha detto il portavoce dell'esercito nazionale libico, di cui Haftar è il comandante generale, durante un'intervista ad Al-Arabiya. Il portavoce Ahmed Al-Mismari ha ribadito una posizione di chiusura rispetto a negoziati per porre fine alla battaglia per la conquista di Tripoli. E oggi si vota in Algeria e i mattoni sono diventati simbolo della protesta che aspira al boicottaggio. I manifestanti hanno murato gli ingressi agli uffici del governo locale per impedire la distribuzione di materiale elettorale a Tizi Ouzou, una città chiave nella regione che ospita gran parte della minoranza berbera, o Amazigh, la minoranza ha anche posto manifesti che invocano uno sciopero generale. All'inizio di quest'anno l'anziano presidente Bouteflika si è dimesso dopo mesi di proteste che non hanno smesso perché chiedevano riforme politiche su larga scala prima di qualsiasi voto. Sono 5 principali candidati, in qualche modo tutti legati all'ex presidente Abdelmadjid Tebboune, primo ministro per qualche mese nel 2017, quando è stato licenziato da Bouteflika per aver attaccato gli oligarchi legati al fratello, ora detenuto. Ali Beflis, 75 anni, è stato premier da 2000 al 2003, si è già candidato due volte contro Bouteflika senza successo, rappresentante del partito principale, l'FLN, e poi Azzedine Mihoubi, 60 anni, ex giornalista e ministro della cultura, leader del partito del National Democratic Rally e anche appoggiato dal FLN, alleato del governo del suo partito. Abdelkader Begrine, 57 anni, è stato ministro del turismo e deputato in rappresentanza del partito islamista moderato Elbina. Abdelaziz Belaid, 56 anni, ex membro del comitato centrale dell'FLN, poi istituito il partito del movimento El Mostakbal, e venne sconfitto nelle elezioni presidenziali del 2014, sempre da Bouteflika. Stai ascoltando Radio Bullet. Europa a emissioni zero entro il 2050, aumento degli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030, dall'attuale 40 al 50-55%, contributo dalla mobilitazione di investimenti pubblici e privati per il clima e l'ambiente nell'ordine di grandezza di 260 miliardi di euro l'anno. Sono i punti salienti della comunicazione sul Green Deal, agenda verde della Commissione europea a guida di Ursula von der Leyen. La prima iniziativa è prevista a gennaio. Sarà un piano per gli investimenti sostenibili che includerà uno strumento finanziario per coinvolgere anche le regioni dell'Unione Europea più dipendenti dalle fonti fossili. Elezioni generali nel Regno Unito. Gli elettori si recano alle urne. Sono le terze elezioni in meno di 5 anni, descritte come le più importanti da decenni. Il risultato potrebbe far sì che Boris Johnson mantenga la sua promessa di portare a termine la Brexit o lanciare un nuovo referendum. Il Parlamento dell'Ungheria ha approvato una legge che aumenta il controllo del governo sui teatri del paese. La legge è stata approvata con una procedura di emergenza dalla maggioranza dietro al premier nazionalista conservatore Orban, 115 contro 44 contrari. La legge introduce un consiglio culturale nazionale per la direzione strategica centralizzata dei settori culturali da parte del governo e aumenta il suo ruolo nella gestione dei teatri e dei finanziamenti comunali. Il governo punta a demolire il Fondo Culturale Nazionale, di nominare i propri direttori di teatro sostenuti dallo Stato usando i finanziamenti come leva, e sicuramente interromperà il finanziamento dei teatri indipendenti, condannandoli a morte. Pakistan, almeno 12 pazienti sono morti e 25 medici sono rimasti feriti dopo che centinaia di avvocati scontenti hanno fatto irruzione nel reparto di emergenza dell'Istituto di Cardiologia del Punjab a Lahore. Gli avvocati hanno distrutto specchi, medicine e macchinari. Si erano riuniti fuori per protestare contro un video diventato virale sui social media dove si vede un medico che racconta l'incontro con alcuni avvocati. La protesta è diventata violenta quando gli avvocati sono entrati in ospedale dopo aver rotto automobile parcheggiate fuori. I pazienti in autoambulanza non sono riusciti a raggiungere più l'ospedale, mentre all'interno i pazienti in pieno trattamento sono rimasti incustoditi nel caos. Il Parlamento indiano ha approvato un contestato disegno di legge che impedisce ai migranti musulmani illegali, mentre non lo fa per i non musulmani di 3 paesi vicini che vengono invece amnistiati, di ottenere la cittadinanza dopo ore di accesi dibattiti tra i legislatori e proteste in alcune parti del paese. La violenza esplosa nel nord-est, etnicamente diversificato, mentre i manifestanti, molti dei quali studenti, si sono scontrati con la polizia e sono rimasti in piazza fino a tarda serata ieri, accendendo falò, dando fuoco alle macchine e vandalizzando la proprietà pubblica. Giappone ha approvato il progetto di smantellamento di 2 reattori nucleari nella prefettura di Fukui, i più potenti ad essere dismessi dall'incidente nucleare di Fukushima nel 2011, 1 miliardo di euro per la Kansai Electric Power per demolire i reattori 1 e 2 della centrale di Oi. Bougainville passa il referendum sull'indipendenza, la stragrande maggioranza di Bougainville ha votato sì. Ora si procede, ma non sarà una cosa veloce. Il referendum era previsto in base a un accordo di pace che nel 2001 pose fine a una guerra civile in cui morirono almeno 15.000 abitanti dell'arcipelago. Nuova Zelanda, il vulcano di White Islands che lunedì è eruttato uccidendo diversi turisti, sta di nuovo in attività emettendo gas velenosi e attività sismica, impedendo le ricerche di 8 persone disperse. 25 persone sono ancora in ospedale in condizioni critiche per le ustioni, ma salgono a 16 le vittime dell'eruzione di lunedì. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani con Paola Mirenda e una nuova raffica di notizie. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno cari radioascoltatori e benvenuti al Pinsimonio radiofonico. Questa settimana, dopo una puntata dedicata ai diritti dell'uomo e una ai sentimenti, concludiamo con una puntata dedicata ai modi di esprimersi. Le parole di oggi sono laconico, lapidario, prolisso, verboso e quiescenza. Cominciamo con laconico, che è innanzitutto un aggettivo che si usa per indicare qualcuno che viene dalla Laconia, che è un'antica regione della Grecia e in particolare di Sparta. Da qui viene riferito al modo di parlare o di scrivere, breve e conciso, in quanto si attribuiva agli spartani l'abitudine all'espressione sobria e sentenziosa, una risposta laconica. Si usa anche per indicare una persona che si esprime concisamente, che è di solito o in singoli casi di poche parole, un uomo laconico. Altra parola con significato simile ma più solenne è lapidario, che come aggettivo si riferisce alle iscrizioni su lapide, lapidario appunto, e nel parlato intende qualcuno che si esprime in modo sentenzioso, grave e conciso, come si conviene alle iscrizioni, un discorso lapidario. Poi abbiamo un termine di significato contrario a lapidario, che è prolisso, usato per indicare qualcuno che si diffonde eccessivamente nel parlare o nello scrivere. Si dice anche discritto o discorso troppo lungo e minuzioso, e quindi a volte noioso, un romanzo troppo prolisso. In senso letterale è qualcosa di lungo in senso materiale, che si estende cioè nello spazio, e anticamente si usava anche per indicare qualcosa che si prolungava nel tempo, una vita prolissa. Sinonimo di quest'ultimo termine è verboso, che deriva dal latino verbum, ossia parola, e si usa per indicare qualcuno che usa troppe parole e frasi, che parla o scrive appunto in modo prolisso, dilungandosi senza reale necessità, un conferenziere, un giornalista verboso. Il termine si può usare anche riferito ai discorsi o agli scritti stessi, una relazione verbosa. L'ultima parola di oggi è quiescenza, che indica uno stato di quiete, di riposo, di cessazione o sospensione dell'attività, e di solito si dice dei vulcani.

E questa era la ballata del Pinelli, 12 dicembre 2019, 12 dicembre 1969, 50 anni di stragi di Stato, ancora molte delle quali assolutamente impunite, e noi naturalmente ricordiamo a modo nostro, con lo sguardo della controinformazione che a suo tempo sbugiardò la pista rossa, quella che voleva Valpreda colpevole e Pinelli suicidato, e invece indicò la pista nera dei stragisti fascisti pagati dai padroni, si diceva, e dal governo per stabilizzare la questione politica. Ne parleremo anche oggi, questo pomeriggio alle 17, avremo anche stamattina un'anteprima nella nostra rassegna stampa di un commento di Saverio Ferrari, milanese, che è un esperto della nuova destra e anche vecchia destra, e quindi potrà darci qualche lume in più. Ma cominciamo invece, un giorno che comincia a nevicare, col miraggio verde. Il Green Deal è il nostro uomo sulla Luna. La commissaria dell'Unione Europea, dice il manifesto della prima pagina, lancia un patto verde da 260 miliardi all'anno. Ma i buoni, perché tiepidi propositi per la questa detta neutralità climatica entro il 2050, si scontrano con l'assenza di finanziamenti e l'opposizione di alcuni stati, tra l'altro i più importanti purtroppo, come gli Stati Uniti d'America. A Madrid la COP25 è verso la conclusione in salita. Greta tiene banco, allarmi ghiacciai. Questo è un po' il quadro non troppo rassicurante che arriva da Madrid. Miraggio verde, dunque, le ambizioni del commissario europeo per fronteggiare la crisi climatica si scontrano con l'assenza di finanziamenti, cioè chi paga, come sempre nei grandi discorsi, quando si fa al vil danaro è chiaro che il cuore del capitalismo batte nel portafoglio. Il Green Deal, dice la buona dell'Eglia, nel nostro uomo sulla Luna, questo perché era in contatto con l'astronauta palermitano. La Unione Europea propone una nuova strategia di crescita basata sull'impegno per la neutralità climatica nel 2050. Questo è quanto che arriva dal manifesto. Il Corriere invece naturalmente è molto meno problematico e molto più trionfante. Falistico, von der Leyen, il mio patto verde come uno sbarco sulla Luna per l'Unione Europea, bella immagine evidentemente, e il grande piano ecologico economico per dimezzare le emissioni di 6 anni ed eliminarlo entro il 2050. Nel frattempo il Time trova la persona dell'anno, la individua nel Greta Thunberg. Greta, persona dell'anno, la più giovane di sempre, ho trovato la mia voce. L'attivista per il clima incoronata da Time sarà domani in quel di Torino. E quindi ma come risponde il giornale, che è costretto a dare questa notizia nonostante ami dire Greta e i gretini? Allora, Greta conquista il Time, è la persona dell'anno più giovane di sempre, per il magazine ha trasformato vaghe ansie sul futuro in un movimento globale. Però arriva l'attacco del presidente brasiliano Bolsonaro, non poteva mancare, quello brucia le foreste, quindi difficilmente può essere amico né di Greta né di gretini, come direbbe Sallusti. Quanto spazio ha una mocciosa, dice lui, che avrebbe molto più spazio ai torturatori fascisti, quelli che sta riabilitando in Brasile. E già Michele Sin, per dire che non era giusto fare Greta Thunberg personaggio dell'anno, dice: è la scelta facile, è Hong Kong? Allora uno dice: beh, allora è la Bolivia? E allora tante altre cose, e la Libia? E no, insomma, questo è quello, c'è sempre qualcosa più importante di quando si parla di ambiente, secondo il giornale. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori. Mentre Bologna ha sopra di sé qualche fiocco di neve che sta calando esattamente in questo momento e le strade sono tutte bloccate, il resto dell'Emilia da Parma a Modena pure, anche la tangenziale ha un blocco sul traffico. Noi continuiamo sulle notizie dal mondo, e appunto il Time, il settimanale più famoso al mondo, ha dichiarato questo l'anno di Greta e gli ha dedicato la copertina. È il simbolo del 2019 e lei risponde da Madrid: incredibile, invece servirebbe ottimismo. È stato un anno formidabile, il 2019 di Greta Thunberg, da ragazzina sconosciuta, icona della protesta giovanile, a fustigatrice di quei potenti che continuano a non decidere, condannando le generazioni future a vivere su una terra resa inospitale dal riscaldamento globale. Ora il 2019 si è concluso con la copertina di Time che incorona la persona dell'anno come tutti gli anni. e appunto il riconoscimento condiviso con gli altri attivisti, e la giovane domani pomeriggio sarà a Torino, ce lo fa sapere attraverso un Twitter, ci vediamo alle 15 in piazza Statuto. Un'eroina dei due mondi, così l'ha voluta celebrare Time nella foto di Eugenia Arbugheva, che la ritrae sugli scogli appena approdata a Lisbona, giusto in tempo per poter essere a Madrid per la COP25. COP25 che, come ricordava Alfredo, sta andando malissimo, nel senso che ci sono più di un paese nel mondo che si sta ribellando, si sta mettendo di traverso. Ricordiamo Jair Bolsonaro del Brasile, l'India e la Cina, tanto per non fare nomi. E l'altra notizia, sempre su Repubblica, sempre da Madrid, questa è a pagina 8, c'è l'intervista al climatologo che ha ispirato i ragionamenti di Greta Thunberg. Si chiama Johan Rockstorm, 53 anni, il quale dice: ci stiamo pericolosamente avvicinando a un punto di non ritorno e abbiamo poco tempo per affrontare la situazione. E perché ancora oggi si percepisce il clima come se fosse un problema ambientale e viene relegato in particolarmente alla categoria del dibattito pubblico, senza capire che stravolgerà invece tutte le altre cose. Questo rende difficile farlo diventare una priorità assoluta. E c'è stato, come diceva anche Alfredo, un collegamento con lo spazio, Luca Parmitano: da qui vediamo la bellezza della Terra ma anche la sua fragilità, ha detto a Antonio Gutierrez in questo collegamento spaziale. Vedo con i miei occhi i terribili effetti dei cambiamenti climatici. Luca Parmitano ieri si è collegato con la stazione spaziale, dalla stazione spaziale internazionale, con gli esperti riuniti alla conferenza internazionale sul clima COP25. Appunto ci sono anche presenti i piani di Ursula von der Leyen, 260 miliardi all'anno per cambiare l'Europa. La Presidente presenta il Green New Deal, patto europeo sul clima, obiettivo zero emissioni nel 2050. E il nostro Green New Deal è il momento europeo dell'uomo sulla luna. Usa questa metafora Ursula von der Leyen per presentare il nuovo patto dell'Unione Europea sul clima, il primo atto della sua commissione, un piano mastodontico da 50 proposte legislative che, se portate a termine, cambierà radicalmente il volto di tutti i settori economici e industriali del continente, nonché le vite dei suoi abitanti. Il traguardo dichiarato è di trasformare l'Europa in un territorio a zero emissioni nel 2050, con un obiettivo intermedio di un taglio della CO2 del 55% entro il 2030. Per farlo la Presidente ha annunciato 260 miliardi all'anno pubblici per i finanziamenti Unione Europea e nazionali, con flessibilità sul deficit e privati. Inoltre ci sarà un fondo di transizione da 100 miliardi per aiutare le regioni più colpite dalla decarbonizzazione. Belle cose, assolutamente sottoscrivibili. Io però sono molto scettico quando vedo che in Italia non passa nemmeno una mini plastic tax, perché altrimenti crolla il mondo, oppure non si nemmeno ha il coraggio di revocare le concessioni alle grandi opere come le autostrade, per dirne un'altra. Allora su questo arriva l'inchiesta di Ferruccio Sansa: il viadotto a 6 come il Morandi, la finanza nelle sedi dei Gavio. L'indagine sul crollo sembra la copia del ponte, ma nel mirino della Guardia di Finanza questa volta non c'è l'ASPI di Benetton, ma i controlli e la manutenzione di autostrade di Fiori e di Sivna. Questo è l'aspetto, la realtà. La realtà che naturalmente si scontra con gli allarmi reiterati degli scienziati, rimasti assolutamente inascoltati, anzi alla fine, essendo reiterati, annoiano anche, ma è sempre la stessa cosa. E allora leggiamo il CNR: anche il ghiacciaio della Marmolada sta sparendo. Ma basta, ma lo sappiamo che i ghiacciai stanno sciogliendo, sarà un problema. I ghiacciai si sciolgono sempre più rapidamente. Nuovi studi pubblicati ieri mettono in evidenza l'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai sul pianeta Terra. Il primo studio viene pubblicato sulla rivista Nature, la prestigiosa rivista, e mostra, a partire dai dati satellitari, come dal 92 ad oggi la Groenlandia abbia perso circa 3.800 miliardi di tonnellate di ghiaccio, sufficiente a far salire il livello medio degli oceani oltre un centimetro. Anche la Marmolada è destinata a sparire entro il 2030. E anche se la temperatura si fermasse così come oggi, sparirebbe lo stesso. Sembra essere superato il punto di non ritorno. Dunque, questo è il quadro, quindi dedicato ai ghiacciai. Ecco la novità: quel mazzo lì di fiori che chi non si bagna, chi lo voglio rire, dalla riva da bim, chi non si bagna, chi lo voglio rire, lo voglio regalare, perché l'è un bel mazzetto, lo voglio regalare, perché l'è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio morito questa sera qua, glielo voglio dare al mio amore questa sera quando gli Ghiacciaio della marmolada, ciaone, e questo è la... Ma continuiamo con l'extraterrestre, l'inserto del giovedì sull'ambiente, che parla della green card. Di cosa si tratta? Agli operai della storica quartiera Pirinoli di Roccavione, in provincia di Cugno, il premio ambientalista dell'anno, istituito da Lega Ambiente a Casale Monferrato. Nel 2015, 70 lavoratori hanno recuperato la fabbrica fallita riconvertendola all'economia circolare. La carta arriva dalla raccolta differenziata, l'acqua si recupera dal ciclo produttivo, l'elettricità è prodotta da un impianto di cogenerazione, i fanghi di depurazione si riutilizzano. Devo dire che è una exit strategy anche per aziende come l'Ilva di Taranto, stretta tra la produttività e il massacro dell'ambiente e delle persone che abitano in zone limitrofe. Allora eccolo qua la notizia, ben altra, anche qui c'è un'azienda in crisi che rischia di chiudere, e leggo il manifesto: Mittal mette in cassa 3.500 operai. Taranto, l'azienda USA, la sentenza del tribunale sullo stop all'alto forno. L'azienda USA tutto, una volta è la impunità penale, no? Comunque, Mittal USA, la chiusura del forno, 3.500 operai in cassa integrazione, dice ancora il manifesto, a poche ore da rigettare la proroga della FO2, Morselli vara la cassa straordinaria. E vediamo la fake news, proprio nel senso letterale, del giornale, che scrive: i magistrati licenziano 4.000 operai dell'ex Ilva. I magistrati non licenziano nessuno, evidentemente, però si continua a dire che la colpa è della sentenza, ma fino a prova contraria, licenziamenti scrive l'Ilva. Ex Ilva, un magistrato ha mandato a spasso 3.500 operai a Taranto, quindi sempre dalla parte dei padroni, Giuseppe Marino, del giornalista del giornale. Dunque, al ministro dello sviluppo l'incontro con l'azienda, trattativa tutta in salita, sindacati in rivolta, Bentivogli della FIMME, sindacato CISL metalmeccanico, i lavori non svolti dai commissari li pagano i dipendenti. Sì, perché c'era un periodo per sanare quest'alto forno, ovviamente il periodo è passato e si è rimasti lì. A questo punto cosa fare delle industrie strategiche come l'Ilva? E allora torna un buono un progetto che una volta si verrebbe stato giudicato come eretico, anzi come illegale, aiuti di Stato e le aziende private, perché leggo, si parla di nazionalizzazione almeno provvisoria o part time, in parte, soldi pubblici e difesa delle aziende nazionali, così sta nascendo l'Europa post-liberista. Ah, ma guarda un po', c'è chi lo diceva in tempi di grandi privatizzazioni, di non cedere le industrie strategiche ai privati, però adesso invece si cominciano a contare i danni. È un cambio di stagione, Parigi e Berlino pronte a investire, Roma per ora guarda indietro, dice il Corriere della Sera, sempre riferendosi alla van der Leyen e questa Europa green che con l'Ilva non c'entra un accidente di niente evidentemente. Ma parliamo invece di lavoro, continuo a parlare di lavoro e vado alla pagina economia del Corriere di Bologna, perché parliamo di Conad Auchan, questa grande distribuzione alimentare, un calderone di 6.000 esuberi, un'altra cifra impressionante. Conad Auchan, 16 ore di sciopero. Il sindacato cita lo slogan e punge: dimostri che le persone valgono più delle cose. Sì, per capire meglio il triste mondo del lavoro di questi tempi, segnalo due commenti a pagina 25 del Sole 24 Ore, giornale della Confindustria. Uno di Marco Bentivogli, che dice: ArcelorMittal spinta via, quelli che pagano sono i lavoratori. Nella serata di ieri abbiamo preso dal Tribunale di Taranto, che ha rigettato la proroga relativa allo spegnimento dell'altiforno numero 2, con la stessa procura di Taranto aveva concesso appunto questa proroga. A seguito di questa decisione, ArcelorMittal ha comunicato alle RSU l'intenzione di avviare la cassa integrazione straordinaria per 3.500 persone, includendo in questo numero i 1.273 attualmente in cassa integrazione ordinaria, a cui, se vogliamo, si possono aggiungere lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, i 1.850 in cassa integrazione in attesa di ricollocazione, totale 5.350. Il giudice del dibattimento del Tribunale di Taranto, Francesco Maccagnano, ribaltando la richiesta della procura, ha rigettato l'istanza di proroga di spegnimento dell'altoforno 2 avanzata dai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria. Grazie, c'era morto un ragazzo a luglio ed è un forno altamente pericoloso, per cui è giusta la decisione dei giudici, strana la decisione di ArcelorMittal appunto di combinare questa cosa, sempre nell'ambito della crisi dell'acciaio. Un altro commento lo fa Gianfilippo Cuneo e ci dice: Ilva e Alitalia, ci sono i commissari che sono utili, ma solo se hanno nuovi progetti. L'Alitalia ha un nuovo commissario, la siderurgia dell'Ilva probabilmente tornerà in mano ai vecchi commissari o un altro nominativo fresco, ma anche se l'Europa continuasse a chiudere un occhio sugli aiuti di Stato dell'Italia a tali società, se non cambia l'approccio dei problemi incancreniti, non saranno mai risolti. All'Italia e Ilva sono due casi di mercati molto differenti, ma accomunati da una situazione ambientale in senso lato assolutamente perversa. Ancora sul mondo del lavoro, la notizia la andiamo a prendere dalle pagine della Stampa. E c'è un reportage di Valeria D'Autiglia da Taranto. Taranto si divide, la città di Taranto si divide sull'altoforno 2, i posti sono a rischio e si spegne, non è che si deve produrre ad ogni costo. La decisione dell'azienda dopo lo stop dell'altiforno 2 imposto dai giudici, il MISE impugnerà la sentenza. E in fatto di numeri, la crisi dell'acciaio appunto ci rilancia la produzione da 8 milioni di tonnellate. Questo è il piano del governo, il mantenimento di tutto il portafoglio prodotti, i guadagni si vedranno solo nel medio periodo, il 50% di utilizzo del carbon coke e la trasformazione dei forni in forni elettrici, la chiusura di delle cose più pericolose e il reintegro tutto dell'organico. E il piano del governo in tre mosse, c'è un retroscena di Gilda Ferrari sempre sulle pagine della Stampa, che dice che il piano del governo si punta sui fondi europei della UE. Naturalmente in Italia non è che ci siano così tanti soldi da poter fare tutto in casa. E la Gazzetta del Mezzogiorno dice: ex Ilva corso contro il tempo. Quindi chiudiamo questa pagina del lavoro legato evidentemente anche all'ambiente. L'azienda annuncia la cassa integrazione subito per questi 3.500 dipendenti. L'altoforno 2 deve chiudere domani, ma il riesame scivola in quel di gennaio. E allora andiamo invece in Parlamento. Titoli d'apertura di diversi giornali: alta tensione sui ribelli 5 Stelle. 4 senatori 5 Stelle votano contro questa mozione che invece ha visto il governo compatto sul MES. Ilva e quindi Di Maio accusa la Lega, mercato delle vacche in aula, salva stati sì alla risoluzione. E che viene chiamato il salva stati, questa vicenda così descritta dal manifesto, il meccanismo salva governo regge alla prova dell'aula, grazie ad una formulazione fumosa che accontenta Di Maio passa il testo sul MES. 4-5 Stelle votano no, in tre vanno verso la Lega. Ed eccolo qua quelli che vanno verso la Lega. Per esempio abbiamo il professor Ugo Grassi, eletto nel collegio uninominale di Avellino e docente di diritto civile a Napoli. Annuncio il voto in dissenso del gruppo e constato di non riconoscermi più nelle politiche del mio movimento. Grassi vota a favore della mozione di Forza Italia, prima firmataria la capogruppo Anna Maria Bernini, ma scorrendo i tabulati il suo sì compare anche in calce il resto di salviniani, quindi una sorta di presa di posizione ben definita. Paragone, che ha votato no, però rimane i 5 Stelle. Poi abbiamo chi invece è in procinto di passare alla Lega, è un altro, Stefano Lucidi, che lui fa risalire tutte le elezioni nella sua regione. Qualcuno qualche giorno fa ha detto che le elezioni in Umbria erano un esperimento, io non mi sento una cavia, neanche un criceto, quindi esco dalla ruota e voto no. In realtà era il secondo mandato, non potevo più essere rieletto, questo è, qualcuno gli avrà promesso la rielezione. Allora abbiamo la polemica di Maio che dice qui c'è il mercato delle vacche di Salvini che cerca di irresponsabili qua e là e spera che la magistratura guardi dentro questa vicenda. Ma al di là di questo, della non tenuta dei 5 Stelle, due le cose che voglio aggiungere. Uno è una cosa clamorosamente sottolineata ieri nel dibattito in Parlamento, che viene anche ripresa da Luisella Costamagna. Un talk show seppellirà noi eppure la verità. Cos'è successo? Aule vuote, TV piene. Conte parla del MES di fronte a una camera semideserta, tanto ormai la politica si fa altrove, suono di plausibili e bufale. Tutto televisivo, quindi uno dice, uno grida, urla, e il problema, la verosimiglianza televisiva è diversa da una presunta o vera falsità o veridicità. L'altro tema sui conti pubblici, su questa manovra porta un bonus per il latte artificiale, sarà molto criticato la tassa sui pandoloni ritratata, poi adesso è giusto sottolineare questa, alle famiglie 400 euro, la manovra doppiano i fondi delle borse di studio per l'università. Sì, in questo giornale virtuale, questa rassegna stampa, segnalo le pagine, a proposito di governo e partiti, segnalo le pagine del Resto del Carlino, dove appunto si parla di MES, il salva stati, il governo trova l'intesa ma i 5 Stelle perdono dei pezzi e la legge di bilancio viene elencata sulla base dei vantaggi che può proporre e quindi si parla di latte artificiale e c'è un bonus di 400 euro, ci sono sgravi fiscali a chi assume e chi crea microimprese, sgravi e contributi al 100% in 3 anni per chi assume giovani apprendisti nel 2020. Così un emendamento approvato in commissione bilancio del Senato, lo sconto dei contributi per le aziende sotto i 9 dipendenti vale per chi assume con contratti di apprendistato. E poi ci sono ancora 12 milioni per le scuole per i disabili e ancora nuovi fondi per i centri antiviolenza, 12 milioni di euro in 3 anni per il contrasto alla violenza delle donne, una delle novità della manovra che ha ricevuto l'ok in Commissione Senato. E sul reddito di cittadinanza, se un cittadino che percepisce un reddito di cittadinanza viene assunto a tempo determinato, il beneficio non decade ma subisce solo una sospensione, l'assegno torna a essere erogato al termine del contratto. E riguardo la plastic tax, c'è al Senato una pioggia di emendamenti, l'ok alla manovra rischia di slittare la prossima settimana. E appunto la tassa sulla plastica cambia ancora e così la manovra come una tela di Penelope continua a essere riscritta per placare le proteste delle categorie, accontentare le richieste della maggioranza, soprattutto per far quadrare i conti. La plastic tax scenderà stavolta a 45 centesimi al chilo, ma si applicherà anche al tetrapack, escluso appena 2 giorni fa dalla manovra. E c'è una bella foto con il Premier Conte e il ministro Roberto Gualtieri di 53 anni appunto mentre sono in Parlamento e stanno a confutare. E l'alta velocità, i cantieri ripartono in Val di Susa, i lavori della Torino-Lione a quasi 3 anni dal completamento, 7.020 metri del cunicolo esplorativo della Maddalena e dopo 18 mesi persi per il governo italiano, come ha ricordato la coordinatrice del corridoio mediterraneo, nei primi mesi del 2020 partiranno i lavori per la realizzazione delle nicchie nella galleria e l'annuncio in occasione della commissione intergovernativa tornata a riunirsi a Torino dopo un anno dall'ultimo incontro. Per quanto riguarda la Lega, il Fatto Quotidiano apre con indagato Salvini, vole di Stato, fini privati, vecchia storia, che andava a fare giro le sue conferenze, i suoi comizi, dicendo che erano incarichi istituzionali. Abuso d'ufficio dei PM al Tribunale dei Ministri. Ancora, Lega caccia i 49 milioni, nuove argole profonde dei pubblici ministeri, qualcuno trema anche perché non è solo l'era di Bossi, anche l'era di Salvini in corso. Rimborsi elettorali, una fonte preziosa avrebbe fornito elementi nuovi sul presunto riciclaggio del Carroccio, attesi ulteriori testimoni. Andarono alla lista Fontana gli altri 450.000 euro. 2013-2018, la lista Maroni ottiene indietro 900.000 euro. Gli inquirenti una parte andò all'attuale governatore. Lombardia, Tizzoni racconta che la situazione fu svuotata per finanziare il partito che aveva i conti bloccati. Questa era, si aggirò con una sorta di bypass finanziario truffaldino le questioni, gli diktat della magistratura. Ma guardiamo ancora altri aspetti di questa nostra giornata e possiamo vedere questa, il complotto, le famose taghe rosse che in qualche modo vengono evocate dal giornale in retroscena. Chi osa toccare Giuseppi, cioè come Conte, muore. Quell'asse tra toghe rosse e grilline che colpisce Renzi e Salvini ostili a Conte. Quindi sarebbe un grande complotto. Non si parla di 49 milioni, ma si parla di un complotto. Detto questo, procediamo con altri titoli. Abbiamo le sardine. Sabato a Roma, c'è una molta attesa per questa vicenda, una maxi sardina per la piazza di Roma e il Vaticano dice cogliere le spinte positive. Il sostegno di Parolin, i famosi Papa Boys, al lavoro una scenografia per l'eventuale evento di sabato, 300 volontari per la sicurezza. Sulla scenografia i volontari interviene il Fatto Quotidiano. Le sardine a San Giovanni, il primo palco e scorta Fium. Come cambia la piazza? Tutte blu in soccorso, sono giovani, non hanno esperienza, naturale che ci siano, si siano rivolti a noi. I preparativi dalle transegne a diritti si ha, l'ultima parola al leader bolognese. Questo è il conto. Forse a Bologna c'è, dice il Fatto Quotidiano, a incontrare il Santore portavoce delle sardine nazionale ci sarà anche Ken Loach, il noto regista britannico. Ma vado invece nella cronaca milanese del Corriere, perché parliamo del segretario della Lega di Cremona, offese razziste, insulte le sardine, leghista si dimette, quando non battono nuotano. Scusate, è l'inverno che avanza. Quando non battono nuotano, bufera sul segretario della Lega a Cremona e consigliere comunale Pietro Burgassi, che è stato costretto a dimettersi dopo il suo commento social alla fotografia del corteo delle donne di colore che ha sfilato a Napoli per chiedere il permesso di soggiorno. Donne definite sardine nere per difendere i diritti dei clandestini e migranti. È scritto sull'articolo di Rassegna Italia condiviso da Burgassi. L'ex vigile del fuoco del 2016, la guida del Carroccio, ha rimesso il suo mandato nelle mani della segreteria nazionale. Questo è quanto. Mentre dal giornale le sardine, dice Marco Tarchi, interpellato come politologo dell'estrema destra, le sardine una moda, slogan dai centri sociali, nessun contenuto, non sono affatto partiti che raccolgono i temi della sinistra radicale. La previsione dell'euforia presto la marginalità è un fenomeno che può durare una sola campagna elettorale. Sì, in tema di sardine c'è qualcosa ripreso anche sulle notizie della Stampa, in particolare Flavia Perina ci fa un breve resoconto su come si stanno evolvendo e quanti sono gli stratagemmi che si stanno inventando per screditarle nel Pantheon dei personaggi più citati nei loro profili, nei profili delle sardine. Emergono Greta Thunberg, Carlo Larachete e Ocasio-Cortez, e appunto questo ci fa sapere Flavia Perina. Poi c'è un'intervista a Paola Turci che dice: sabato a Roma ci sarò anch'io, voglio partecipare a questo risveglio delle coscienze. E poi gli chiedono se intende candidarsi in qualche modo, perché lei ammette di sentirsi di sinistra all'emiliana, un sinistra accogliente, dice no, io non mi candiderò mai alle elezioni, però aspetto un risveglio delle coscienze e voglio partecipare appunto a questo, a questa grande manifestazione. Ma un'altra delle notizie belle dei giornali di oggi è largo alle donne, viva le donne. E già prima abbiamo citato Greta Thunberg come personaggio dell'anno di Time, e poi ci sono le atlete dello sport che saranno equiparate ai maschi, e così si inaugura l'era del professionismo anche nel mondo femminile dello sport. E poi c'è la nuova presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Nel nostro paese età e sesso contano ancora troppo, ci dice questo affresco di questo personaggio a cura di Alessandro Di Matteo, appunto, che ce lo dice da Roma. Un breve identikit ci fa sapere che è nata a San Giorgio su Legnano, vicino a Milano, nel 63, sposata, tre figli, professore ordinario di diritto costituzionale, viene nominata giudice della Corte Costituzionale, di cui è stata vicepresidente nel 2014, insegna presso numerose università italiane, tra gli incarichi istituzionali assistente di studio presso la Corte Costituzionale. La professoressa Marta Cartabia ha redatto 171 decisioni dall'ingresso della Corte Costituzionale dal 2011 a oggi. Ama la musica rock e il suo gruppo preferito sono i Metallica. Ancora sulle donne, un grande articolo appunto di Repubblica, pagina 6, che ci dice che il 40% delle donne sono nei CDA, approvata la legge Golfo-Mosca, che porta dal 33% al 40% il numero delle consigliere nei consigli di amministrazione delle aziende quotate. Il 25% sono le ministre in Italia, le donne ministre sono appunto, e in Francia invece sono il 48,8%, il 53% in magistratura sono le donne magistrato. E ancora. Sì, colpisce lo stupore impositivo che a molti giornali, una donna a capo, dovrebbe essere una cosa talmente ovvia a secondo i meriti delle persone e delle cose che dicono, invece no, si fanno i conti, ahimè, ancora di quanto questo, quanto quell'altro, tanto siamo arretrati su questo versante, questa è la verità, anche perché la nuova elezione della emerita consigliera durerà 9 mesi. E quindi dopo tempo magari di decidere nelle varie correnti componenti chi mettere a capo in modo più duraturo la commissione, speriamo che non sia così. Detto questo, abbiamo aperto con la ballata del Pinelli, parlando del cinquantenario della strage di Piazza Fontana. Continuano i servizi di inchiesta della nostra emittente curata da Michele Terra e Agostino, che andrà in onda integralmente ovviamente nel nostro spazio pomeridiano dell'informazione di Focus, ma che viene in qualche modo, ha dei suoi tracciati in trailer anche la mattina. Oggi giovedì sentiamo il parere di Saverio Ferrari, milanese, esperto delle vecchie e nuove destre, e lui non è così convinto che la strage di Piazza Fontana sia ancora così ricca di mistero. Io direi che su Piazza Fontana in realtà non si possa parlare di misteri, forse mancano alcuni dettagli che potrebbero addirittura aggiungersi nei prossimi anni, ma di questa vicenda noi sappiamo praticamente quasi tutto, e il quasi tutto non è semplicemente dovuto a una ricostruzione storica, è proprio ciò che emerge dalla mole degli atti giudiziari e dalle inchieste che sono state fatte. Potremmo addirittura ricostruire gli ultimi 200 metri della bomba, perché sappiamo benissimo da dove veniva l'esplosivo, ce lo ha raccontato il generale Gianadelio Maletti, il numero 2 del SID, che ha detto apertamente in uno degli ultimi processi che l'esplosivo veniva da una base NATO della Germania, era stato caricato su un tir, portato in Italia attraverso il Brennero e consegnato a Ordine Nuovo del Triveneto. In buona sostanza lui ha parlato di un'organizzazione neofascista terrorista del Triveneto. Sappiamo quindi addirittura da dove veniva l'esplosivo, dove è stato, come dire, periziato, perché uno dei pentiti di Ordine Nuovo, Carlo Di Giglio, ha dichiarato a più riprese di essere stato chiamato a Mestre per vedere se questo esplosivo poteva essere trasportato a Milano senza problemi, e quindi lui l'ha addirittura periziato, nel senso che gli ha dato anche le indicazioni a quelli di Ordine Nuovo su come trasportarlo a Milano. Sappiamo poi la macchina che ha portato l'esplosivo a Milano ha avuto una sosta a Padova sotto la casa di un altro importante ordinovista e poi è arrivato nella città di Milano. Sappiamo forse il percorso, da Corso Vittorio Emanuele attraverso la Galleria del Corso in Piazza Beccaria, un gruppo di ordinovisti, uno dei quali rassomigliante a Valpreda ha fatto la famosa operazione presso il tassista Cornelio Rolandi, facendo in modo che poi venisse Pietro Valpreda indicato come l'attentatore. Sappiamo tutto un po' di questa vicenda, si stanno aggiungendo anche ultimamente altri dettagli, ma la conclusione è che gli operativi di Piazza Fontana furono quelli di Ordine Nuovo del Lombardo Veneto, perché i milanesi fecero da supporto logistico, che i mandanti stanno in vertici alti che non sono solo vertici politici, ma sono soprattutto vertici degli apparati dei servizi segreti, degli apparati militari. Sappiamo che lì il centro motore che ha spinto questa vicenda, che è stata a lungo preparata, perché ha avuto una lunga incubazione e ha avuto un'escalation nel 1969 a partire dalla primavera con ben 17 attentati che dovevano essere, come è stato in parte, addebitati agli anarchici. Quindi noi abbiamo degli esecutori materiali fascisti, abbiamo degli ispiratori che sono settori della politica e del mondo industriale, e abbiamo dei centri motori che dobbiamo individuare negli apparati militari e di intelligence del nostro paese. Dentro la storia di Piazza Fontana ci sono anche i cosiddetti depistaggi, i cosiddetti servizi deviati e altri apparati dello Stato, in primo luogo la questura milanese, che indicano subito come responsabili anarchici e su questo muovono le indagini, fino alla questione che vedrà la cosiddetta tragica morte di Pinelli, dentro al quale poi ci sta anche tutta la vicenda legata a Luigi Calabresi, che verrà assassinato qualche anno dopo. Che cosa sappiamo noi di queste vicende? Non dobbiamo parlare di apparati deviati, in realtà gli apparati erano organici e funzionanti in una certa direzione. Se dobbiamo parlare di apparati deviati, dobbiamo forse riferirci ad alcuni uomini che avevano sentimenti democratici. I deviati erano i democratici, ma in realtà quando parliamo di strage di Stato, e la definizione è assolutamente ancora calzante, dobbiamo ricordarci che vi era una uniformità di indirizzo e vi erano i vertici e il corpo di questi apparati che marciavano verso una soluzione che era quella di un sovvertimento delle istituzioni democratiche e repubblicane. La pista anarchica fu preparata per tempo, si fece subito una campagna, soprattutto a partire dall'aprile precedente, per mettere sul banco degli accusati gli anarchici, a partire dalle bombe del 25 aprile del 69, alla Fiera Campionaria, allo stand della Fiat e alla stazione centrale di Milano, all'ufficio Cambi. Per la cronaca, quegli attentati furono commessi dalla cellula veneta di Ordine Nuovo di Fede di Ventura, e che furono peraltro condannati a 15 anni anche per questo. Ma lì si scatenò proprio una campagna e un'operazione politica che aveva il suo centro nell'ufficio politico della Questura di Milano, di cui faceva parte il commissario Luigi Calabresi, che incolpò ingiustamente gli anarchici, che fecero molto carcere, chi un anno e mezzo, sulla base del niente, di indizi assolutamente labili e di prove inventate che furono estorte attraverso anche verbali manipolati e verbali costruiti con le botte e con la violenza, come poi si evidenziò al processo che fu fatto agli anarchici. L'ufficio politico della Questura di Milano picchiava gli imputati, li minacciava di morte, li costringeva in buona sostanza a firmare dei verbali falsi. Lì si è costruita la prima operazione, qualcuno ha detto giustamente la prova generale, che ci ha portato poi a Piazza Fontana. Pinelli è vittima di questa situazione, come lo è stato Valpreda, ma Pinelli ci ha rimesso la vita. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Sì, anniversario dei 50 anni della strage di Piazza Fontana, abbiamo sentito appunto questa intervista e faccio un paio di segnalazioni. La prima è su un libro, Edizioni Feltrinelli, di Enrico De Aglio, si intitola La bomba, 50 anni di Piazza Fontana, tra colpi di scena e scoperte recenti, un viaggio nella più grande ferita del nostro paese, l'Italia non dimentica. È un libro pieno di foto, è bellissima, è quella della piazza, il famoso corteo muto, privo di bandiere, tutte persone zitte in Piazza del Duomo a Milano, una foto che rimase famosa. Un'altra cosa da segnalare è questa sera a Lumiera alle 19.45 c'è Marco Tullio Giordana che presenta il suo film del 2012, Romanzo di una strage, interpretato da Pierfrancesco Favino nei panni dell'anarchico Giuseppe Pinelli e da Valerio Mastandrea in quelli del commissario Luigi Calabresi. E c'è questa intervista di Marco Tullio Giordana dove dice: ho scelto la vostra città perché qui c'è stato il 2 agosto con la strage milanese, ha molto in comune, spiega. A dialogare con il regista sarà lo scenografo bolognese Giancarlo Basili, e nella pellicola firmò la maestosa ricostruzione della Milano del 1969. E per quello che riguarda le notizie segnalo un articolo di fondo che è di Luigi Manconi, che si chiama La perdita dell'innocenza, che leggo solo l'incipit, poi vi rimando a una lettura più approfondita dei giornali. Dice: una folla che seppe costituire un argine con la sua sola presenza vigile. Si fa appunto riferimento a quella famosa manifestazione muta che ha riempito Piazza del Duomo a Milano. Non è necessario, forse nemmeno possibile, scegliere tra le due immagini, non esclusivamente per la loro indissolubile consequenzialità, anche perché solo una ferita così profonda, 17 morti, 88 feriti, poteva determinare una risposta tanto saggiamente inesorabile. E continua: non mi riferisco, come fanno troppi, a un sentimento che avrebbe riguardato un'intera generazione. Non fu così, la componente drammaticamente coinvolta sotto il profilo emotivo, culturale e politico, che era costituita da una minoranza, tuttavia capace, questo è il punto, di influenzare in qualche modo gran parte della vita sociale. La Bruna, Calabresi, Lograno, nomi che sono legati alle pagine più scure della nostra Repubblica. Veniamo invece a Saul Caia, del Fatto Quotidiano, che ci riporta questa sentenza. Non fu legittima difesa, condannato gioielliere. Catania, 13 anni per Guido Gianni, nel 2008 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo colpendoli durante la fuga. Il primo a intervenire ovviamente Matteo Salvini. Vergogna, la giustizia italiana condanna alla galera il commerciante aggredito con la moglie minacciata di morte. Io sto con chi si difende sempre. La sua solidarietà va anche a un altro gioielliere, di questa volta Ponte di Nanto, tal Zancan, che dice: perché condannare una persona che ha difeso la propria attività? Magari dopo anni di sacrifici per tirarla su, i ladri sono morti, amen, così lui ha risolto la questione. Nessuno gli ha detto di compiere quello che gli poi hanno fatto, ha detto Zancan, con una provocazione che è definita così dal Fatto Quotidiano, ma per me invece è una convinzione, che vuole la pena di morte de facto per chi viene sorpreso a rubare. Prima sparo, poi ci guardo, questo è il concetto. Per chi non è legittima difesa, nemmeno con la più che generosa legge Salvini sulla legittima difesa, quindi anche oltre. Altre notizie di cronaca vanno a Bologna, sia il Museo Morandi, ecco la sede, sarà Palazzo Magnani in via Zogardino, acquistata dal De Magno per 2 milioni, l'Epore è il posto perfetto, ricorda il Carlino Bologna, che c'è una lunga lite finita in tribunale perché le sorelle Morandi definirono il luogo per il lascito Morandi il Palazzo da Curcio, poi fu spostato al Mambo e adesso arriva a Palazzo Gardino, a Zogardino. Speriamo che la sistemazione, i locali più consoni, le tele di Morandi, sia appunto ben preferibile a quella maldestra del Mambo. Altro tema, altro giro sempre da Bologna, XM24, aria di sgombero, la Sani sotto sequestro, il GIP ha accolto richiesta della procura, la caserma dovrà essere liberata, con l'affermazione che il diritto di associarsi non implica il diritto di occupare immobili altrui. Il procuratore Amato: in dubbio la sussistenza del reato, la polizia poteva intervenire subito dopo di iniziativa. Questo è quello che si risponde alle istanze di aggregazione dei quartieri. Mentre continua la polemica su giocare il derby Fortitudo Virtus a Natale, con quello che significa non solo per, come simbolo sempre più così da centri commerciali e sui generis anche delle feste più sentite, ma anche per quello che poi comporta i servizi d'ordine, per esempio. Quindi Natale al lavoro, pronti a scendere in piazza. I sindacati dei poliziotti lamentano anche ritardi nei rimborsi degli straordinari. La rassicurazione di quest'ora sarà pagato il super festivo. Sono demoralizzati i poliziotti, molti non potranno vedere le famiglie neppure a Capodanno. Sì, ancora una notizia di cronaca, questa arriva da Rimini e ce la riporta il Carlino. La commissione tributaria provinciale ha stabilito che l'IMU andrà versata anche sull'area occupata in spiaggia dall'ombra e non solo sulle strutture degli stabilimenti. Era una grande contestazione che era nata, 500 stabilimenti verseranno l'IMU e invece 300 saranno i ricorsi alla commissione tributaria, che ha deciso per una tassa più inferiore rispetto al previsto del 50%. E c'è il presidente dei Bagnini, Diego Casadei, che dice: giusto così, noi eravamo rigidi e contestavamo i criteri del calcolo, a questo punto una tassa seppure ridotta va, in ogni caso va pagata. Andiamo in pagina internazionale, perché oggi, anzi in questo momento, si sta già votando nel Regno Unito. Un'elezione tutta giocata sulla Brexit, secondo il Corriere. Il vantaggio di Johnson si è ridotto, nonostante i giornali italiani continuano a parlare male di Jeremy Corbyn perché è di sinistra, gli danno dell'antisemita, del buffone, tutto, però alla fine è quello che tiene in piedi, seppur minoritariamente, il Labour, che il mitico Tony Blair, il Renzi ante litteram, aveva assolutamente affossato nei sondaggi. Quasi un referendum tra anti e pro Unione Europea. L'ultimo sondaggio dai conservatori, la maggioranza assoluta. Quindi è quello il tema, non che Boris Johnson e i suoi conservatori possano perdere queste elezioni, ma se con il vantaggio ridotto nei sondaggi, se ha la maggioranza o se non avrà una maggioranza assoluta. Il reportage sul comizio finale, burlone, ruffato e postmoderno, Re Boris punta al massimo rialzo. Dagli eccessi, donne e cibo al governo. Una corsa inarrestabile e senza controllo. E questo è il tema che dà il Corriere della Sera. Londra, ultimi sondaggi, rischio Parlamento appeso, questo invece è il Fatto Quotidiano con Provenzani. Urne aperte a fine del 22, Corbyn recupera su Johnson, il calvario Brexit si prolungherà. Vittoria risicata, la questa del premier conservatore non basta, i Tories dimezzano le preferenze. Questo anche perché ormai è chiaro che chi vuole il Remain deve votare laburisti, che è l'unica forza che in un maggioritario secco in questo tipo di elezioni possa contrapporsi a Boris Johnson. Per i Tories, dice il manifesto con Leonardo Clausi, c'è solo la Brexit, Corbyn punta in alto, conservatori in testa nei sondaggi ma senza maggioranza assoluta rischiano lo stallo. Obiettivo: superare la fatidica soglia dei 326 seggi per scongiurare l'Hung Parliament, cioè il blocco del Parlamento. Sì, sono elezioni un po' strane, nel senso che mentre Jeremy Corbyn parla di programmi elettorali, futuro, Green New Deal, eccetera eccetera, Boris Johnson si blocca appunto sulla Brexit e non tiene conto invece che grandi esperti comunisti e economisti stanno dicendo che la Brexit porterà solo sfighe e danni. E la pagina 9 riporta un paginone, dice: il Regno Unito vota con l'incubo della paralisi, Johnson teme una vittoria, Boris Johnson teme una vittoria dimezzata. Oggi le elezioni più incerte, i conservatori sono in vantaggio, ma senza una maggioranza Boris non potrà più governare. Ma c'è un altro dato, cioè è un quarantesimo, 1979, Long Collins, l'anno in cui il punk nacque e morì. Il 14 dicembre i Clash pubblicarono il capolavoro, racconta Stefano Mannucci dal Fatto Quotidiano. Quel maledetto SMS della sera prima: dai Paul, proviamoci. Joe Strummer presagiva di non poter avere troppo tempo davanti, ma non immaginava che il countdown fosse così agli sgoccioli. Qui cercava di convincere il fiorottoso bassista Paul Simon, per una solenne reunion dei Clash alla cerimonia dell'insediamento del Rock and Roll Hall of Fame. Gli altri, Mick Jones e Topper Hedon, erano disponibili. Simon obiettava che nello spirito rompicoglioni dei vecchi punk non avrebbero mai dovuto esibirsi dopo tutti quegli anni in una situazione dove i biglietti costavano migliaia di dollari, per non dire del ricattuccio dell'organizzatore, tipo: vi diamo il premio se vi fate vivi. E allora ricordiamo questo, il capolavoro dei Clash. Langan Collins, The Clash. Dunque, andiamo avanti con la Francia. Come triste Parigi con la pensione di 64 anni, dice Luana De Micco. La riforma aumenti agli insegnanti, fondi per gli artigiani e gli agricoltori, ma sono tutti furenti, i sindacati si mobilitano. Il perché di questa rivolta in Francia sindacale ce la sentiamo raccontare da Merlo, corrispondente del Manifesto proprio da Parigi. Bisogna dirlo, insomma. Oggi la situazione di crisi del governo è legata alla pensione, perché c'è stata effettivamente la manifestazione del 5 che era stata decisa da tutti i sindacati, salvo uno, la CGT, e poi dovremmo parlare di questo. Ma se guardi poi per esempio gli slogan o i manifesti che ci sono nella manifestazione di Parigi, ma anche negli altri, ma prendiamo Parigi, io non ero a Parigi, ma ho un'altra grande città, non parlano solo della pensione. Ecco. Però diciamo, cos'è oggi l'obiettivo della riforma della pensione? L'obiettivo della riforma della pensione è di passare dalla pensione attuale, che è un regime non molto interessante, posso dirlo in situazione di averlo vissuto, ma che però, perché la pensione è calcolata sui 25 anni migliori, insomma, ecco, però nei 25 anni migliori c'hai quelli che non sono buoni, e poi soprattutto fa una media che ti abbassa automaticamente la pensione, cioè per cui in generale si va in pensione con 60%, 65%, compresa la complementare, se c'è la complementare, che però non è una pensione privata, la complementare è una pensione che è autogestita fra parte sociale, cioè fra sindacato e patronato, si va in pensione con 60-65% dell'ultimo stipendio. Insomma, ecco. Dov'è che ci sono due modifiche che sono fondamentali in questa proposta che è del governo? È di far saltare tutte, questa è quella generale, poi ci sono tutta una serie di convenzioni per le categorie un po' più a rischio, se così può dire, fra cui i poliziotti, ne parliamo poi se vuoi, e che fanno che uno parte in pensione prima, cioè invece di partire a 62 anni, per se hai tutti i tuoi 40-41 anni e mezzo, invece di partire a 62, per esempio i ferrovieri partono a 52, quelli che conducono i treni, che viaggiano di notte, queste cose qui. Ma per esempio per dare, no, 55, scusa, 55. Però per esempio per dare un esempio, i poliziotti partono a 52, insomma, ecco. A tal punto che anche i poliziotti sono scesi in sciopero, che salterebbe tutte queste convenzioni che esistono, ce ne sono una quarantina secondo i settori, che diciamo danno una modifica, se così si può dire, alla convenzione nazionale per permettere per volte di tener conto delle condizioni di lavoro. E questo era Mero del Manifesto, che racconta l'animo della rivolta sindacale di questo della Francia, che sta davvero far traballare Macron all'Eliseo. Andiamo in Spagna, il re designa Sanchez, avanti il negoziato con gli indipendentisti, e schiera repubblicana può decidere con l'estensione delle sorti del primo governo rosso-viola di Spagna, tutto rinviato in quel di gennaio. Mentre, girando pagina, andiamo in Libia, Haftar gonfi muscoli, colpiremo le navi turche, perché Erdogan ha detto che avrebbe appoggiato il Sarraj avendo i posti di petrolio. Si allarga lo scontro sull'accordo marittimo militare tra il Sarraj ed Erdogan, quindi si rischia di la guerra, si allarga a macchia d'olio. La maschera elettorale di oggi non ferma l'Iraq, invece l'Algeria, così descritta dal Fatto Quotidiano, vota l'Algeria dei viceré, Bouteflika non c'è più, il cambiamento neanche, questo è il Fatto Quotidiano, mentre il Corriere dice la protesta dell'Algeria indomita e boicottiamo le elezioni farsa. Le presidenziali di oggi contestate nonostante i 5 candidati sono tutti appartenenti al sistema. Poi il Manifesto ci dà questa storia surreale di queste due persone, due nigeriani giunti in Croazia per un torneo sportivo, ma deportati in Bosnia, trattati da criminali senza sapere perché siamo qui, cioè li hanno presi da migranti, li hanno messi. Non hanno alcuna assistenza legale, quando chiediamo che ne sarà di noi, nessuno ci risponde. Questa è la situazione allucinante di queste due persone. Sì, 10 e 23 minuti primi in questo momento, ultime battute finali per questa rassegna stampa. Il tribunale dell'AIA, San Suu Kyi, appunto la leader birmana, premio Nobel per la pace, difende il Myanmar dalle accuse e si schiera con i militari. Avete un quadro fuorviante, quello che dice, ma per la prima volta ammette, forse in alcune operazioni antiterrorismo vi è stato un uso eccessivo della forza, e in ogni caso ammette che secondo lei non c'è stato nessun genocidio dei Rohingya, anche se ha riconosciuto le sofferenze dei musulmani. Ancora una notizia arriva dagli Stati Uniti, New Jersey, l'attacco al supermercato kosher. Trump vuole varare nuove norme contro l'antisemitismo. Gli attentatori, spinti dall'avversione per Israele e la Casa Bianca, l'ebraismo è una nazionalità e va protetta. Ancora una notizia dall'estero, da Budapest. A Budapest passa la legge sul controllo governativo dei teatri. Il Parlamento ha approvato una controversa legge che aumenta il controllo del governo sui teatri, voluta dal primo ministro della destra populista Viktor Orban. Il provvedimento, adottato con procedura d'urgenza, è passato con 105 voti favorevoli. I deputati dell'opposizione si sono alzati in piedi col volto coperto da maschere nere da teatro in segno di protesta. La legge crea un consiglio culturale nazionale per la guida centralizzata strategica dei settori culturali da parte del governo, con un ruolo nella gestione del finanziamento dei teatri. Ancora una notizia, la andiamo a prendere al volo dalle pagine di Repubblica, e si parla di Giulio Regeni. Nessuna risposta alla rogatoria per trovare riscontri all'incontro con lo 007 egiziano. Pare che ci sia un testimone che raccolse le parole di uno degli esecutori del delitto di Giulio Regeni, che è un poliziotto kenyota, ma la collaborazione con i PM italiani è stecolata dai rapporti stretti tra Nairobi e Cairo, e quindi le cose sono ancora ingarbugliate. E questo è tutto, ma il resto è silenzio, ma no, perché a seguire Rock and Roll Radio.